Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. Ritorniamo sui vari rivoli provocati dalla crisi economico-finanziaria in corso, che sta avendo chiare ed inevitabili ripercussioni anche sul mercato valutario. Quali sono gli effetti più importanti, più evidenti che abbiamo visto di recente? Le turbulenze sono già cominciate con il cambio euro-dollaro, che ha subito diversi scossoni negli ultimi mesi dopo il record della scorsa estate dell'euro sul dollaro intorno a 1,60. Adesso l'euro sta facendo una bella marcia indietro verso la moneta americana. Abbiamo visto la sterlina crollare sotto il peso sia del dollaro che dell'euro. Abbiamo visto uno yen, una moneta giapponese, rafforzarsi parecchio verso le altre divise. Di tutto questo domani si occupa la storia di copertina di Plus 24 del Sole 24 Ore. Come al solito noi abbiamo rubato questa idea, l'abbiamo traslocata anche, l'abbiamo anticipata anzi, a Salva Danaio, e questo lo abbiamo fatto perché ancora una volta vogliamo dimostrare come bisogna fare molta attenzione all'aspetto valutario quando sottoscriviamo un investimento, e in un momento come l'attuale, in cui c'è sicuramente anche chi va in cerca di occasioni d'acquisto, non bisogna dimenticare che guardando alle valute si tratta di un gioco rischioso, pericoloso, sicuramente attraente per qualcuno, ma bisogna comunque fare molta attenzione anche all'andamento delle economie di riferimento delle valute, di cui parleremo questa mattina. Con chi parleremo di questo argomento? Robert Baron, amministratore unico di Delta Forex, buongiorno e benvenuto a Salva Danaio. Grazie Debora, un saluto a tutti. E buongiorno anche, forse non l'abbiamo ancora collegato telefonicamente, ma lo stiamo recuperando, avremo con noi anche Davide Sacchetti, vicepresidente di Credit Suisse Lugano. Ovviamente microfoni aperti anche a voi, il numero verde è sempre lo stesso, è l'800240024, ci potete anche scrivere alle 349-238-6666. Parleremo di mercati dunque questa mattina, focalizzandoci particolarmente su quelli valutari, ma ovviamente in legame anche con le cosiddette, passatemi il termine inglese, asset class, è assolutamente rilevante da tenere in considerazione. Ci ha raggiunto nel frattempo Davide Sacchetti. Sacchetti, buongiorno. Buongiorno. Allora, dicevo, ovviamente il legame anche con quello che accade sul mercato azionario è inevitabile. Cosa succede stamattina sui mercati? Succede che è quella che in gergo gli operatori chiamano una giornata assolutamente interlocutoria, un mercato che attende il dato sul prodotto interno lordo americano, che conosceremo nel primo pomeriggio. Nel frattempo c'è stata una certa volatilità già messa a segno da questa mattina, da quando le borse hanno aperto negative, poi hanno recuperato tutto passando in positivo, arrivando in qualche caso a guadagnare mezzo punto percentuale, come tra l'altro ancora sta succedendo a Londra, più 0,4%, mentre sono di nuovo scivolate giù Parigi e Francoforte, che stanno perdendo nella stessa identica misura, meno 0,07%. Positiva invece Piazza Affari, più 0,4% sull'S&P MIB, più 0,26% sul MIB. Stamattina tira il fiato Fiat, che sta guadagnando 3,5 punti, probabilmente sulla scia di un recupero tecnico, ma anche sulla scia delle attese del pacchetto di sostegno al settore auto che il governo negli ultimi giorni si è impegnato a varare in una decina di giorni. Recupera di 3 punti percentuali anche Enel, recupera 2 punti anche STM, che ha sofferto molto negli ultimi giorni dopo la divulgazione dei dati e delle previsioni per il 2009, soprattutto dopo l'annuncio di maxi tagli di posti di lavoro che il gruppo per affrontare la crisi sarà costretto a fare. In rialzo di 1,5 punti abbiamo l'Ottomatica, la Popolare di Milano, abbiamo Finmeccanica, abbiamo Mediobanca e anche la ex Autostrade, che soffre stamattina, torna a soffrire l'Espresso, stamattina scende di 2 punti. Pirelli meno 2, Eni meno 1,45, Prismi al meno 1,28, Monte dei Paschi meno 1,12, Geox meno 0,9%. Abbiamo avuto un andamento piuttosto curioso stamattina per il settore del lusso. Bulgari ha aperto con un ribasso di qualcosa come 5 punti percentuali, poi li ha recuperati tutti, adesso scende di nuovo dello 0,8%, però ci sono delle società che sono molto sensibili ovviamente ai dati economici che arrivano dagli Stati Uniti, anche all'andamento delle valute che stamattina vedono un rapporto euro-dollaro, focalizziamoci tanto per cominciare su questo, a 1,2870, per cui la soglia di 1,30 è stata abbandonata da parte dell'euro, trend favorevole in queste ore alla moneta americana, ma insomma cercheremo di capire qual è il movimento di più ampio respiro delle valute e di quanto dobbiamo tenere conto di questo aspetto quando scegliamo il nostro investimento. Come sempre cominciamo con la nostra scheda. La crisi economico-finanziaria non riesce ad esaurire la sua portata e gli effetti continuano a propagarsi sui mercati, che sono ancora soggetti a volatilità e forti oscillazioni. Ma accanto al saliscendi delle quotazioni azionarie, altri fenomeni caratterizzano e condizionano le scelte di investimento generali. Le turbolenze valutarie e delle materie prime, due facce della stessa medaglia, che nel 2009 promettono di animare di molto gli scambi mondiali. Lo scorso anno sarà ricordato per l'indebolimento dell'euro rispetto al dollaro. Nel solo 2008 la nostra valuta ha perso oltre il 5% e anche in questa prima fase del nuovo anno continua a perdere terreno. Il trend, secondo gli analisti, potrebbe tuttavia invertirsi nel corso del 2009. Pochi, infatti, credono in un recupero stabile del dollaro, almeno finché perdura la crisi economica. Performance straordinarie, anche se di segno opposto tra loro, sono state messe a segno poi dalla sterlina inglese e dallo yen. Rispetto all'euro, la prima ha perso quasi il 30% e addirittura il 40% sul dollaro, mentre la valuta giapponese si è rivalutata del 24%. L'economia britannica è stata pesantemente colpita dalla crisi e la Banca d'Inghilterra è stata costretta ad un deciso taglio dei tassi che ha portato il costo del denaro ai minimi storici. Per chi va a caccia di occasioni, quindi, questo potrebbe essere il momento per investire. Le possibilità sono molte, dai fondi a conti correnti e prodotti denominati in valuta. Non bisogna dimenticare, però, che si tratta di un gioco molto pericoloso. Così, prima di lanciarsi in un investimento, è bene considerare attentamente il rischio di esporsi alla grande volatilità dei mercati valutari. Occorre conoscere la dinamica dell'investimento prescelto e tenere in considerazione lo scenario economico dell'economia di riferimento. Insomma, gioco pericoloso magari per un piccolo investitore, per un piccolo risparmiatore, non chi invece per professione fa proprio l'esame quotidiano dell'andamento non solo delle valute ma anche di tanti altri aspetti dell'investimento. Robert Barron, amministratore unico di Delta Forex, qual è quello che lei ritiene in questo momento il rapporto di cambio più interessante in assoluto? Ma da un punto di vista di investimento riteniamo l'euro sterlina, come l'abbiamo ritenuta da pochissimo, come un'occasione che c'è stata e che ci sarà quest'anno di ripercorrere una buona parte del percorso di svalutazione che c'è stato. La interrompo subito perché c'è una domanda già su questo, pronta, fresca, di Luigi da Forlì. Sono un po' maleducata con l'ospite, però faccio passare avanti un ascoltatore. Luigi, tra l'altro, le stavamo proprio rubando la domanda. Esatto, infatti. Volevo, diciamo, io ho un'azienda e opero nel mercato inglese, quindi volevo avere così delle prospettive per quanto riguarda, sempre ipotetiche, il rapporto euro-sterlina e anche dollaro-sterlina. Luigi, ci tolga una curiosità, in che settore lavora? Come legname, mai? Legname. Nel legname, quindi come sta andando adesso nel Regno Unito, in Gran Bretagna? In difficoltà oppure comunque riesce? Diciamo in discreta difficoltà. Però comunque, insomma, diciamo, poi è un settore abbastanza specifico quello del legno. Quindi tiene. È comunque sempre un discreto consumo, però con cali notevole. E quindi a maggior ragione, insomma, il rapporto valutario lo guarda. Chiaramente col cambio a 1 è differente rispetto a 0.7, è una differenza sostanziale. Luigi. E poi dopo c'è anche la concorrenza degli Stati Uniti, quindi anche quello mi interesserebbe. Benissimo, giro la sua riflessione, il suo caso, le sue considerazioni ai nostri ospiti. Baron, la faccio recuperare adesso e spiegare magari in maniera un po' più serena, insomma, quello che aveva iniziato a dirci. Allora, bisogna innanzitutto considerare che ciò che è successo nel 2008 ha un carattere di eccezionalità, nemmeno nel periodo che conosciamo, quello del 29-32, che è stato un periodo assolutamente devastante, c'era stata una discesa sui mercati azionari così forte e così prorompente. Abbiamo avuto 15 mesi consecutivamente orientati al ribasso che hanno portato a una serie di valutazioni e di cambiamenti degli scenari devastanti. In questo le valute francamente non si sono mosse più di tanto, perché l'euro-dollaro, pur avendo avuto una fase iniziale in cui era ritornato ad avere dei massimi di periodo, massimi storici molto interessanti, era ritornato poi sulla base di quello che era stato l'avvio del 2008, mentre altre valute come la sterlina, che erano minacciate dal problema molto forte della crisi immobiliare, della crisi del credito, hanno avuto un andamento veramente importante da un punto di vista macroeconomico. Quindi riteniamo che quest'anno la variabile, visto che i tassi sono scesi praticamente al livello dello zero e ai livelli che erano quelli stessi della seconda guerra mondiale, riteniamo che ci siano solo rischi per i cosiddetti portafogli obbligazionari, perché i rendimenti sono molto bassi, mentre la volatilità del mercato resta straordinariamente e statisticamente molto elevata. Quindi sono rischi in conto capitale e quindi la vera differenza sui mercati la faranno d'ora in poi le valute. stante il fatto che crediamo che il mercato azionario non possa avere, se non falliscono delle importanti banche commerciali, e ciò non è nei piani dei governi, non possa avere un andamento praticamente ribassista, ma sarà un andamento laterale di lento recupero con una forte volatilità. Quindi crediamo che in questa situazione le valute la fanno da padrone, con un euro che si indebolerà, perché la relazione storica che ha avuto e correlazione diretta con le materie prime, euro rialzo, materie prime rialzo. Questa si è interrotta dall'anno scorso, quando l'America ha dichiarato il suo stato di cessione a luglio, abbiamo visto gli effetti sul prezzo del petrolio, su molte materie prime, dal rame alle altre, e quindi l'euro subirà questa situazione. In più, oltre a questo, i piani economici di aiuto per i governi determineranno un forte indebitamento dei paesi europei, che ancora non hanno iniziato a tirar fuori soldi e non hanno ancora iniziato a produrre debito, mentre in America già lo si sta facendo da diversi mesi con quantità ingenti. Nonostante ciò, l'euro è mantenuto con un tasso artificioso in questo momento al 2%, proprio per favorire questo tipo di flusso di finanziamenti, ma poi anche l'Europa dovrà adeguarsi come tasso verso i livelli di 1,25, se non di 1 punto. Questa è la cornice generale, Baron. Per tornare a dare qualche indicazione al nostro ascoltatore, invece, che guarda con grande attenzione, sì. Sulla sterlina abbiamo una visione positiva, cioè crediamo che la sterlina abbia subito un colpo eccezionale, sia nei termini che valeva poco più di 2 sterline per dollaro l'anno scorso, che si è ritornata su una base storica molto forte tra 1,35 e 1,38 sterline per dollaro, e che difficilmente ritornerà indietro sotto quei livelli. Quindi crediamo che la sterlina sia una delle valute da mantenere nei portafogli, quindi per il cliente che fa export di attendere ad effettuare le sue chiusure di operazioni. È chiaro che queste vanno seguite di settimana in settimana, perché ci sono delle occasioni importanti. La settimana scorsa avevamo un euro sterlina a 0,94, questa settimana è già sotto 0,90, quindi in linea con il panorama che tracciamo noi, che è quello di vedere un euro sterlina ritornare verso i livelli di 0,85 0,84 nel corso dei prossimi mesi, e di avere come parte alta 0,93 0,94. Sentiamo anche Davide Sacchetti, allora, su quella che è sicuramente l'economia che da questa parte dell'oceano guardiamo con grande attenzione, a parte la Spagna, insomma, vabbè, però lì siamo in zona euro, ma la Gran Bretagna da questa parte dell'oceano è l'economia forse che soffre di più nell'ambito europeo, anche se non è ovviamente nell'ambito europeo, però Sacchetti, insomma, questo rapporto di cambio che ci ha fatto soffrire non poco, ovviamente soprattutto la parte britannica sta soffrendo sua maestà, lei come la vede? Allora, per quanto riguarda il rapporto euro-sterlina, la nostra previsione è leggermente differente, in quanto prevediamo che a brevissimo termine, quindi nei prossimi 3 mesi, la sterlina si possa ulteriormente indebolire, ritornando in zona 0,94-0,97 nei confronti dell'euro. Questo derivante principalmente da 3 fattori. Il primo sicuramente è il rendimento che l'investimento in sterline a oggi è confrontato in euro, è molto esiguo, anzi addirittura negativo, quindi per l'investitore che compra un'obbligazione in sterline ha un ritorno uguale o minore rispetto all'euro, a differenza di pochi mesi fa in cui il rendimento era quasi il doppio, quindi questo gioca a sfavore della sterlina. Sicuramente il fatto della nazionalizzazione delle banche inglesi ha giocato un po' a sfavore, perché comunque l'indebitamento incominciato in America e comunque portato avanti molto velocemente anche in Inghilterra ha indebolito un po' la moneta. Al di là di questi 3 mesi, quindi dopo che a cavallo tra l'estate e la primavera ci troveremo in una situazione in cui la sterlina sarà ancora più debole rispetto all'euro, prevediamo a fine anno un leggero rafforzamento. Quindi per l'investitore che vuole comprare obbligazioni in sterline per speculare anche sulla rivalutazione della moneta, consiglieremmo di aspettare un attimo. No, tra l'altro, magari visto che lei ha fatto proprio questa precisazione circostanziandola nel tempo, lei ha una visione che è positiva nel lungo termine, quindi per la fine dell'anno, al momento ancora invece debolezza per quello che riguarda la divisa britannica. Baron, magari le volevo così un po', visto che lei ha detto che invece ha una visione positiva, se anche in questo caso la visione positiva è vista comunque nel lungo termine oppure nel breve termine. La visione positiva è vista nel medio-lungo termine, quindi crediamo che la sterlina possa apprezzarsi, ciò non di meno ci possono essere delle oscillazioni, quindi non è escluso che si possa ritornare ancora verso 0,92, 0,94, ma crediamo che ci sia una questione di apprezzamento, quindi se c'è una valuta sulla quale si va a investire sono in sterline, l'abbiamo fatto la settimana scorsa, lo faremo ancora se dovessimo ritornarci tra 0,92 e 0,94, perché crediamo che la sterlina abbia maggiori vantaggi rispetto all'euro proprio per le manovre che ha già eseguito e ha già fatto e che in Europa non ci sono. Quindi crediamo che le valute che abbiano già riportato i tassi in quella direzione più vicina allo zero abbiano, cioè, avendo già effettuato delle manovre di contenimento, delle manovre forti sul fronte della crisi finanziaria, abbiano più possibilità di apprezzamento stante i minori rischi che hanno rispetto ai paesi che devono ancora effettuare queste manovre. Spostiamoci in altri ambiti geografici con la domanda di Maria da Como. Maria. Grazie per avermi preso in considerazione. Ci mancherebbe, Maria, è un piacere. Grazie ancora. Io ho delle obbligazioni in dollaro australiano che sono in scadenza e sono in perdita per il valore del cambio. Vorrei sapere se è conveniente che io reinvesta in dollari australiani prima di avere la restituzione in euro. Non so se mi sono spiegata. Aspetti, io credo assolutamente di sì. Davide Sacchetti. Allora, per quanto riguarda il dollaro australiano, la previsione a medio e lungo termine, quindi dai 12 mesi in avanti, è sicuramente un cambio abbastanza stabile. In quest'ultimo periodo quello che sicuramente ha giocato contro la moneta, al di là della crisi internazionale, è stato sicuramente l'andamento molto negativo delle materie prime. Quindi, si è deprezzato di circa il 20% sull'euro il dollaro australiano, sì. Quindi, senza dimenticarsi che... penso la radioascoltatrice avrà molto guadagnato rispetto a un normale investimento in euro, avendo delle obbligazioni in dollari canadesi, avevano un rendimento superiore. Ad oggi il nostro consiglio è ridurre l'esposizione in questa moneta per ribasarsi sulla moneta euro, principalmente perché il trend a ribasso delle materie prime non è finito, ma soprattutto una ripresa delle stesse non è prevedibile. Non è prevedibile al momento, lei ritiene. Quali sono, Sacchetti, in questo momento? Adesso noi abbiamo toccato quelle principali con le quali, come dire, ci confrontiamo ogni giorno, ma in questo momento, ampliando proprio il confine magari geografico di riferimento, le valute a più alto rendimento e perché? Le valute a più alto rendimento ad oggi sono sicuramente le valute dell'Est Europa. Quello che comunque a livello di istituto non consigliamo in questo momento è di farsi allettare troppo da queste monete, in quanto la crisi finanziaria che è molto presente in Europa porterà i suoi effetti anche nell'Est Europa, principalmente perché gli stati europei che andranno a sovvenzionare le proprie società, le quali, facciamo un esempio, anche nel settore dell'auto, possono avere degli impianti in Est Europa, sicuramente quello che verrà richiesto a queste società è la chiusura di questi impianti per potenziare gli stabilimenti nel proprio paese di riferimento dove vengono sovvenzionate dallo Stato. Quindi riteniamo che il mancato sviluppo investimento in questi paesi porti un indebolimento di queste divise. Quindi in un momento di crisi come questo probabilmente è meglio concentrarsi sulla propria divisa di riferimento, che nel nostro caso è sicuramente l'euro, con degli investimenti assolutamente garantiti. Eccoci ritrovati in diretta questa mattina a Salva Danaio. Siamo ritornate ad analizzare le tendenze di mercato e, come facciamo spesso, anticipando la storia di copertina di domani di Plus 24 del Sole 24 Ore, oggi parliamo di valute, cosa è successo di recente, come le principali divise internazionali hanno reagito alla crisi economico-finanziaria, ovviamente tematiche strettamente correlate, e quali sono le tendenze più interessanti da tenere in considerazione se abbiamo un investimento sui mercati internazionali, che è inevitabilmente, necessariamente legato anche alle valute di riferimento, se non ci siamo protetti dal rischio cambio, e quali sono appunto le tematiche più interessanti anche per gli ascoltatori. Ci sono molti in attesa all'800240024. Allora, prima di sentire un'altra ascoltatrice interessata alla sorte della sterlina britannica, volevo leggere ai nostri interlocutori di questa mattina, che sono Robert Baron, amministratore unico di Delta Forex, e Davide Sacchetti, vicepresidente di Credit Suisse Lugano. Una considerazione di un ascoltatore al 349-238-6666. Giacomo me ne ha scritto un paio di volte, per cui insiste, allora io lo leggo. Deborah, le avevo scritto un anno fa, la valuta che segna il barometro per i mercati è lo yen. Ora ho scoperto un altro indicatore, il cross, cioè il rapporto di cambio dollaro australiano franco svizzero. Sembra essere un'affidabile bussola economica, mentre lo yen è più efficace nel segmento finanziario. Giacomo è preparatissimo, ci chiede, concordano gli esperti? Baron. Sul cross australiano-svizzero è un indicatore, ma non è un cross di riferimento. I cross di riferimento mondiali sono l'euro-dollaro e il dollaro-yen. Inutile avventurarsi su altri incroci di cross, perché questi non è che dimostrano la correlazione o l'anticipazione direttamente sui mercati finanziari. Normalmente le valute sono scollegate dall'andamento del resto. Gli operatori che fanno obbligazioni, che fanno azioni, giudicano la valuta un di cui, quindi normalmente nel 95% dei casi esistono coperture delle posizioni sulle posizioni prese, sia in azioni che in bond. Quindi il movimento della valuta è determinato dai flussi speculativi di capitale, di carry trade, che crediamo che non ci sarà più. Infatti poi tra l'altro lì volevo arrivare, poi magari ricordiamo che cos'è questo fenomeno che invece ha caratterizzato notevolmente i movimenti delle valute lo scorso anno, un paio di anni fa. Sì, Baron. E quindi crediamo che l'australiano-svizzero sia un cross da valutare per gli operatori, per il livello del grado di rischio che abbiamo in corso sui mercati finanziari, ma non perché sia un cross da poter perseguire, anche perché gli scambi sullo stesso sono limitati da alcuni broker, non sono ingenti scambi tutti i giorni. Sentiamo se invece questo rapporto di cambio appassiona un po' di più Davide Sacchetti, questo indicato dal nostro ascoltatore. Anch'io lo vedo non come un rapporto, come un indicatore, ma in realtà questo tipo di rapporto tra le due monete non viene utilizzato da nessuno praticamente. Sicuramente l'andamento dello yen nell'ultimo periodo deriva, come diceva giustamente lei prima, dal discorso del carry trade. Un tempo c'erano monete con dei rendimenti dal 5, 6, 7, 8% e uno yen che per prenderlo a prestito costava molto poco. Allora la gente si indebitava in yen per andare a acquistare monete a più alto rendimento. Con una situazione economica come questa che stiamo vivendo in questi giorni, in cui i tagli di tassi di interesse sono all'ordine del giorno a livello mondiale, si capisce bene come il rendimento di tutte le divise, basta vedere oggi che il dollaro rende praticamente zero come lo yen, tutte le divise si stanno appiattendo verso il basso, quindi quello che prima era un'operazione in valuta molto allettante, ad oggi perde totalmente di significato. E quindi insomma abbandoniamo il carry trade per il momento. Ritorniamo invece. È praticamente inutilizzabile. Esatto, infatti non ci sono margini per poter agire su alcun tipo di valuta, almeno nella prospettiva appunto che teoricamente ha anche dei connotati speculativi, perché è chiaro che poi è un'operazione che è bene che i piccoli non facciano. Comunque, Anna dalla provincia di Milano ci fa tornare nel Regno Unito. Buongiorno, benvenuta. 800 24 00 24, se volete intervenire, se siete appassionati di valute, per le vostre appunto considerazioni, i vostri quesiti su questo argomento. Anna, benvenuta. Buongiorno. Senta, io volevo un'informazione dai signori là. E io vi ascolto quasi tutti i giorni. Ascolti, noi abbiamo, mio marito è inglese e io sono italiano. Comunque adesso viviamo qui a Milano. Io c'ho nel Barclays Banco a Milano un capitale abbastanza, che sono in sterline. Sì. E poi la mia pensione dalla Gran Bretagna, la mia e di mio marito, mi arriva in sterline, mi arriva in euro, sì, perché loro già cambiano lì. E volevo sapere se adesso è meglio aspettare. Io vorrei la mia pensione lasciarla lì a Barclays Bank in Inghilterra, intanto se la sterlina... Insomma, è sempre così o se comunque ci sono delle prospettive di miglioramento. Noi ne abbiamo già parlato all'inizio della trasmissione, Anna, sì. I nostri ospiti erano tendenzialmente nel lungo termine positivi sulla sterlina, però bisogna aspettare ancora un po' di mesi perché anche la Gran Bretagna riesca in qualche maniera a trovare la soluzione alla crisi economica molto pesante che sta vivendo. Detto questo, adesso a parte il fatto, forse magari il trattamento pensionistico non va trattato alla stregua di un investimento, per cui adesso magari chiedo anche così un suggerimento di approccio corretto rispetto a questo problema per la nostra ascoltatrice. Chiaramente noi parliamo con due operatori che invece guardano alle valute con un approccio completamente diverso, però se vogliono aiutarmi magari a rasserenare anche Anna. Baron, vorrei cominciare con lei. Ma il consiglio che posso dare è quello di non cambiare. Noi siamo positivi sulla sterlina, l'abbiamo ribadito anche prima, crediamo che la sterlina possa ritornare, come abbiamo detto, tra 0,86 e 0,84 nel breve termine nei confronti dell'euro. L'opzione che potrebbe considerare la signora, che è l'opzione che abbiamo preso noi alla fine dell'anno scorso e all'inizio di quest'anno, è di non avere euro nei portafogli per i rischi che abbiamo detto prima e che poi magari chiariremo nel dettaglio, e di convertire una parte delle sterline che si hanno con eventualmente dei dollari. Sacchetti. Visto l'ottica di lunghissimo termine dell'ascoltatrice, perché stiamo parlando di un piano pensionistico, direi che al di là di aprire un conto in Inghilterra in sterline, questo può essere fatto in Italia, visto che anche in termini fiscali è esattamente identico. Anzi, probabilmente avendo un conto in sterline in Italia ha anche delle agevolazioni nella propria dichiarazione dei redditi, quindi sicuramente manterrei anch'io le sterline. Aprirei invece un conto in divisa in Italia piuttosto che lasciarlo in Inghilterra, ma pronta nel momento in cui si dovesse rirafforzare la sterlina nei confronti dell'euro a iniziarlo a cambiare, perché mi sembra di aver capito che comunque la residenza è quella italiana e quindi il termine paragone per la spesa corrente è l'euro, quindi pian piano nel momento di rafforzamento dell'euro nel confronto della sterlina cambiare questa divisa. 800240024 il numero verde per voi, e a questo numero verde ci ha chiamato anche Francesco da Treviso, che ci fa ritornare invece su un rapporto di cambio con il quale ci confrontiamo un po' più spesso. Francesco. Sì, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, volevo chiedere ai suoi ospiti un consiglio. Io ho fatto per il carry trade con lo yen a 160. Quindi in questo momento ci sto rimettendo abbondantemente. L'ha fatto di recentemente? L'ha fatto recentemente, Francesco? No, non l'ho fatto. Non ho, in tempi quando era vantaggioso farlo? Sì, in una logica comunque di medio periodo. Non ho la necessità di smobilizzare, quindi questa è la mia logica. Volevo chiedere, conviene nel medio-lungo periodo, preciso che poi io ho investito nei mercati emergenti in dollari? Sì. Volevo chiedere, in una logica di medio periodo, conviene stare comunque fermi sullo yen oppure valutavo l'opzione di tenere sotto controllo il cambio dollaro-yen, trasformare il mio finanziamento, il mio debito in dollari e in prospettiva riuscire a recuperare qualcosa più sul dollaro rispetto allo yen? Eccoci ritrovati a Salvadanaio. Tra l'altro c'è un ascoltatore che, precisando la domanda di Anna da Milano, dice: ma percepisce la pensione inglese, non investe per la pensione. Credo che però le considerazioni fatte dai nostri ospiti possano valere ugualmente, anche se poi, come dire, la situazione di Anna è leggermente diversa rispetto a come l'abbiamo descritta poi quando ha chiuso la telefonata. Detto questo, prima di rispondere a Francesco da Treviso, che focalizza la sua attenzione sullo yen, in molti ascoltatori dice: forse non avete esaudito in maniera opportuna ed efficiente la questione invece della prospettiva per il dollaro, perché comunque è una tendenza molto interessante, immagino, da analizzare. Gli Stati Uniti hanno un nuovo presidente che si sta facendo carico di gestire come meglio può, almeno in queste prime fasi, una situazione economica pesantissima. Allora andiamo un po' ad esaminare invece quali sono le prospettive per il 2009 per il dollaro. Robert Baron, comincio con lei, poi andiamo allo yen per Francesco da Treviso. Bene, siamo di fronte al tema centrale mondiale che a nostro avviso poi caratterizzerà l'opinione di maggior parte degli esponenti politici, economici e finanziari durante non solo quest'anno ma anche i prossimi anni. Cioè, che fine farà il dollaro? Si rafforzerà o si indebolirà? È la domanda chiave che tutti si fanno. Autorevoli economisti e anche studiosi, oltre che premi Nobel di fama internazionale, si sono già espressi sul fatto che la Federal Reserve abbia le mani legate e che il dollaro potrà solo deprezzarsi ulteriormente a causa del crescente debito pubblico e di altri importanti elementi di valutazione. A nostro avviso invece la possibilità di apprezzamento del dollaro sono molto più concrete di quelle che si esprime al momento. Quindi crediamo che in un'ottica di medio e lungo termine, quindi con una scadenza temporale minimale tra il 2012 e massimale tra il 2015, ci sono una serie di ragioni fondamentali. La prima è che il livello assunto dei tassi americani non è più appetibile e che nel contempo la Federal Reserve dovrà avere una crescente necessità di farsi finanziare esternamente, sia per la situazione congiunturale interna che ha, che per gli eventi straordinari che si sono verificati nel 2008 e per quelli ancora che si devono registrare nel 2009. Poi, come seconda battuta, crediamo che il maggiore finanziatore della Fed è di fatto attualmente la Cina, tramite le emissioni del tesoro americano, e siccome i tassi sono prossimi allo zero, bisognerà pur dare qualcosa in cambio perché questo denaro, e cioè con una prospettiva di un dollaro forte. Terzo punto, crediamo che la Fed sarà costretta a mantenere i tassi bassi. E quindi ricordiamo che si viaggia in un corridoio fra lo 0 e lo 0,25% adesso. Esatto, e che l'unico strumento che ha a disposizione per monitorare eventuali rigurgiti inflazionistici è proprio il cambio. Crediamo inoltre, punto numero 4, che gli USA hanno bisogno di investimenti interni per far ripartire l'economia e che finanzia e che lo fa in un'ottica di medio e lungo periodo non può esporsi a delle prospettive di deprezzamento nel medio e lungo periodo, e in ogni caso gli strumenti di copertura funzionano solo parzialmente ed hanno anche dei costi particolarmente elevati. Infine, non da ultimo, crediamo che fino a quando non ripartirà la domanda interna americana, che è gravata, come sappiamo, da un settore immobiliare in continua crisi. L'ascoltatore all'inizio parlava del settore legname, legname ai minimi da oltre 16 anni a questa parte, crediamo che non si possa avere una ripartenza globale, e quindi le materie prime non alzeranno sensibilmente la testa, rimarranno in dei trading range e quindi favoriranno nei prossimi anni un dollaro progressivamente più forte. Davide Sacchetti, non so se lei ha una teoria da poterci esprimere lo stesso in 5 punti, ne bastano anche meno, però insomma la sua prospettiva nel lungo termine per il dollaro è positiva oppure ancora dovrà questa divisa, alla luce anche di quello che sta accadendo nel tessuto economico americano, soffrire un po' rispetto alle altre, e comunque l'abbiamo vista che nei confronti dell'euro qualche margine di recupero lo ha avuto? Allora, diciamo che le previsioni di Credit Suisse sono un po' più a breve termine, perché non ci spingiamo nel 2015, perché onestamente di questi tempi già fare una previsione un anno, anno e mezzo diventa difficile, e quindi piuttosto di fare previsioni magari non corrette preferiamo mantenere sì, una tendenza che stanno seguendo anche molti suoi colleghi, da quello che abbiamo avuto modo di appurare e testare anche a Salva Danaio. Effettivamente è un po' difficile adesso rispetto al passato fare delle previsioni a lunga gittata. Comunque ci dica. A breve termine prevediamo che il dollaro si possa rafforzare in zona 1,25-1,26, derivanti principalmente dal fatto che ad oggi la gente considera il dollaro ancora un bene rifugio, quindi coloro che vanno a comprare titoli di debito statale per percepire annualmente 0 o 0,50, dipendenza di che tipo di obbligazione vado a comprare, vuol dire che basano il loro tipo di investimento unicamente sulla concretezza e la certezza del capitale. La previsione nostra è un indebolimento in zona fine anno, ma questo indebolimento potrebbe essere anche ampliato per ritornare sopra l'1,45. Questo principalmente per un po' di motivi. Il primo motivo è senz'altro che il governo americano più di altri ha iniziato a stampare moneta per sopperire alle esigenze delle proprie banche e delle proprie industrie, quindi finanziando, dovendo fare delle iniezioni di capitale, l'arma che ha è la stampa di moneta e emissioni di titoli di debito. Ad oggi è verissimo che i maggiori acquirenti di titoli di debito americano sono la Cina e il Giappone, e che le loro grandi riserve sono in questa moneta. È anche vero che nel momento in cui questi due stati dovessero soltanto rallentare o diminuire l'acquisto di titoli di Stato americani, il dollaro avrebbe una ripercussione molto veloce, tipo quella della sterlina, e molto negativa. Questo perché prevediamo non possa succedere? Perché automaticamente questi due stati, portando la svalutazione del dollaro, si svaluterebbero le proprie riserve, quindi ad oggi si trovano in una situazione di essere costretti malvolentieri a continuare a acquistare titoli di Stato americano. A sottoscrivere Treasury. Eravamo rimasti anche in sospeso con la domanda, la situazione di Francesco da Treviso, che continua a fare carry trade, quindi ad indebitarsi in yen, una divisa a basso tasso, per investire in valute a maggiore remunerazioni. E allora, sta facendo bene Francesco Baron? Beh, no se non ha una protezione sull'investimento, e no perché il cambio della valuta dello yen nei confronti delle principali valute riflette i gradi di rischio dei mercati finanziari, quindi l'apprezzamento dello yen avviene per la sicurezza del valore capitale. E quindi non c'è la possibilità, se non con un cambiamento di scenario veramente grandioso, che non è previsto, perché la crisi finanziaria è ancora in atto, poi la crisi economica durerà, anche questa, tra la crisi finanziaria e la crisi economica, prima che ci tiriamo fuori da questa situazione ci vorranno un paio d'anni. Quindi la situazione sul cambio dell'euro-yen è di vederlo con un progressivo e lento deterioramento, ritornare per gradi verso 105, verso 100, questo perché abbiamo una previsione sul cambio euro-dollaro, ostante una presidenza democratica che è sempre favorevole al dollaro, di ritornare con il cambio a 1,17 prima e poi nel tempo alla parità. Sacchetti, la sua sullo yen. Anche per noi lo yen si manterrà più o meno su questi livelli. Il problema del radioascoltatore è principalmente uno: lui deve continuamente fare il rollover, quindi rinnovare la propria posizione sullo yen, e prima o poi dovrà decidere se chiudere l'operazione e incassare una perdita, cosa che probabilmente andrebbe fatta visto che le previsioni del cambio euro-yen non sono così in un rafforzamento dello yen nei confronti dell'euro in modo molto veloce, e valutare l'operazione che diceva prima degli investimenti sui mercati asiatici in dollari in modo totalmente distinto, perché avendo fatto un'operazione euro-yen e poi avendo fatto poi un investimento in dollari, diciamo che io valuterei queste due operazioni in modo totalmente distinto. Totalmente distinto. Tra l'altro, in tutto questo discorso abbiamo tenuto fuori fino a questo momento l'andamento in un'altra valuta molto interessante, molto più vicina a noi, anche questa in altri tempi forse considerata un rifugio, uno scudo protettivo. Tina da Magenta, allora lei ha un investimento in franco svizzero? Sì, UBS Equity Fund Telecom B dal 2000, purtroppo. Diciamo che da 120 erotti per quota adesso siamo a 30. Però questo è un fondo azionario, da quello che ho capito, specializzato nel settore delle telecom. Esatto, ecco. Visto che adesso, come dice il vostro Sebastiano Barisoni, che c'è stato un calo democratico perché sono crollati tutti, a questo punto dove andare? Ecco, chiedevo magari alla Però noi stamattina, Tina, stiamo focalizzandoci sulle valute, per cui se si è protetta o meno. È vero, perché io sono arrivata tardi. Adesso devo bacchettare le mie collaboratrici che hanno preso la telefonata sbagliata. Però no, in realtà noi prendiamo spunto dal suo caso, Tina, per affrontare anche nell'ultimo minuto che ci rimane, ci vorrebbe un po' più tempo, ma non ce la facciamo, anche la prospettiva di questa valuta, qualora lei non si fosse protetta dal cambio, il suo investimento fosse anche esposto sulla divisa appunto svizzera. Baron. Beh, quello che si è verificato durante l'anno scorso resterà impresso nella memoria di molti, non solo per i dati statistici record che si hanno avuti, ma proprio per la dimensione con cui di fatto la pianificazione del rischio è andata a farsi friggere, letteralmente, perché una serie di investimenti nei mercati azionari hanno portato a dei danni che non sono riparabili nei prossimi 4-5 anni. Per quanto riguarda il cambio, previsione di grande rafforzamento del franco svizzero noi non ne abbiamo. Crediamo che sia in una fase cosiddetta di lateralità e di accumulazione nel breve termine, e poi abbiamo un lento e progressivo deterioramento di questo cambio. Quindi crediamo che il cambio del franco svizzero possa trovare una base tra 1,43 e 1,46 nel corso delle prossime settimane e mesi, e che al nuovo risuperamento di quota 1,55 potrebbe produrre una nuova accelerazione, quindi con svalutazione del franco svizzero. Per l'anno abbiamo un'area di massimi tra 1,58 e 1,59 e un'area di minimi, come dicevo prima, tra 1,43 e 1,46. 15 secondi, momento... sì, 15, no, la devo solo salutare perché dovrei chiudere adesso, ma voglio dare solo 15 secondi a Davide Sacchetti per concludere sul franco. Anche per noi il franco svizzero può rafforzarsi o mantenersi su questi livelli, in quanto come bene rifugio in questi momenti, oltre all'oro, è stato considerato proprio l'unica moneta dove la stabilità e ad oggi i rendimenti uguali a quelli dell'euro possono dare dei buoni risultati. Insomma, avete capito, no, quanto è complicato effettuare un investimento che abbia anche un'esposizione significativa dal punto di vista valutario, per cui magari qualche volta, se ci lasciamo attrarre anche da quest'idea, lasciamola un po' ai professionisti. Grazie a Robert Baron, a Davide Sacchetti per essere stati con noi, a Valeria Coffaro, Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Peter Bescapena, assistenza tecnica. Noi torniamo come sempre lunedì alle 8:15 con Soldi e Dintorni, alle 12 con Salva Danaio, da Deborah Rosciani. Buon fine settimana a tutti.